Capitolo 9. Il protagonista della storia. La notte che il signor Clay aveva destinato alla realizzazione della sua storia, la luna piena brillava sulla città di Canton e sul mare della Cina. Era una notte d'aprile, l'aria era calda e dolce, e già innumerevoli pipistrelli sfrecciavano silenziosi avanti e indietro. I cespugli d'oleandro del giardino del signor Clay sembravano incolori al chiar di luna. Le ruote della sua carrozza cigolavano piano piano sulla ghiaia del viale. Il signor Clay era stato vestito e issato sulla carrozza con grande fatica. Ora vi sedeva gravemente, eretto contro l'imbottitura di seta, col mantello nero e in testa un cilindro londinese. Sullo strapuntino davanti a lui, Elishama, figura assai meno imponente, osservava silenziosamente il viso del padrone. Il moribondo si mostrava in giro per manifestare la propria onnipotenza e per fare la cosa che non poteva essere fatta. Passarono dal quartiere ricco della città, con le sue ville e i suoi giardini, nelle strade giù vicino al porto, dove circolava tanta gente e l'aria era colma di rumori e di odori. A quell'ora del giorno nessuno aveva fretta. La gente camminava lemme lemme oppure era ferma a chiacchierare e la carrozza doveva procedere lentamente. Qua e là, lampade di molti colori pendevano fuori delle case come gioielli lucenti nella pallida aria della sera. Dal suo sedile, il signor Clay guardava con durezza gli uomini che erano sul marciapiede. Non aveva mai osservato prima il viso della gente in strada. La situazione era nuova per lui e non si sarebbe mai ripetuta. Un marinaio, solitario, risaliva la via guardandosi attorno e il signor Clay ordinò ad Elishama di fermare la carrozza e di abbordarlo. Allora il commesso scese a terra e, sotto gli occhi del padrone, si rivolse al forestiero. «Buonasera», disse. «Il mio padrone, lì in carrozza, mi ordina di dirle che lei è un bel marinaio. Le chiede se stasera lei vorrebbe guadagnare 5 guinee». «Che cosa dice?» chiese il marinaio. Elishama ripeté la battuta. Il marinaio fece un passo verso la carrozza per poter vedere meglio il vecchio che ci stava dentro. Poi si rivolse ad Elishama. «Lo ripeta, per favore», disse. Mentre Elishama pronunciava quelle parole per la terza volta, la bocca del marinaio si spalancò. Tutto a un tratto egli si voltò e si allontanò più presto che poté, svoltò al primo cantone e sparì in una strada laterale. A un cenno del signor Clay, Elishama risalì in carrozza e ordinò al cocchiere di proseguire. Un poco più avanti, un giovanotto tarchiato che aveva l'aspetto di un uomo di mare stava per attraversare la strada e dovette fermarsi davanti alla carrozza. Il signor Clay e lui si guardarono in faccia anche prima che la carrozza si fermasse. Elishama scese nuovamente a terra e gli rivolse le stesse parole che aveva rivolto al primo marinaio. Questo giovane usciva evidentemente da un locale pubblico ed era un po' malfermo sulle gambe. Anche egli pregò il commesso di ripetergli la battuta, ma prima che Elishama l'avesse finita per la seconda volta scoppiò a ridere e si dette delle manate sulle cosce. «Oh, Dio m'aiuti!» gridò. «Lo so che ai bei marinai accadono queste cose quando vanno a trovare i fannulloni di terra. Non dica altro. Vengo con lei, vecchio padrone, e le assicuro che ha imbroccato l'uomo che fa per lei Gesù Cristo». Balzò in carrozza al fianco del signor Clay, lo fissò Elishama e il cocchiere poi passò una mano sul sedile. «Tutta seta!» gridò ridendo. «Tutta seta e morbidezza! E c'è dell'altro!» Mentre proseguivano, cominciò a fischiare, poi si tolse il berretto per rinfrescarsi il capo e tutto a un tratto si batté il viso con le due mani e rimase per un momento così. Poi, senza dire una parola, saltò fuori della carrozza, cominciò a correre e sparì in una strada laterale, proprio come aveva fatto il primo marinaio. Il signor Clay fece voltare la carrozza e tornò indietro per la stessa strada. Poi voltò di nuovo e tornò lentamente al punto di prima. Ma questa volta non si fermò, non disse nulla, ed Elishama, che ora guardava sempre altrove, cominciò a domandarsi se sarebbero andati avanti così per tutta la notte. Poi, improvvisamente, il signor Clay ordinò al cocchiere di tornare a casa. Erano già usciti dalle stradine strette vicino al porto e già erano sulla strada che conduceva alla casa del signor Clay, quando tre giovani marinai, che andavano a braccetto, vennero dritti incontro a loro. Mentre la carrozza si avvicinava, i due, che erano ai lati, si staccarono da quello che era nel mezzo e proseguirono di corsa, lasciandolo solo, fermo sulla strada. Il signor Clay fermò la carrozza e fermò a un tempo Elishama con un gesto della mano. Questa volta scendo io, disse. Scese lentamente e faticosamente, appoggiandosi al braccio del commesso, poi fece un passo verso il marinaio. Si fermò davanti a lui, dritto come un pilastro, e gli puntò contro il bastone. Quando parlò, la sua voce suonò dura e fessa, ma con un tono spento. Buonasera, disse. Lei è un bel marinaio, vuol guadagnare 5 ghinee stasera? Il giovane marinaio era alto, robusto e di membra larghe, con delle grandissime mani. Aveva i capelli tanto biondi e ritti e lunghi e fitti sul capo che prima Elishama credette che gli portasse un berretto di pelliccia bianca. Non parlava e non si muoveva, ma guardava il signor Clay calmo e tonto, quasi come un torello. Nella mano destra teneva stretto un grosso fagotto. Lo passò alla mano sinistra e cominciò a strofinarsi la mano libera su e giù per la coscia, come se volesse sferrare un pugno da un momento all'altro, ma invece allungò il braccio e afferrò la mano del signor Clay. Il vecchio inghiottì la saliva e ripeté la proposta. «Sei un bel marinaio, mio giovane amico», disse. «Vuoi guadagnare 5 ghinee stasera?» Il ragazzo rifletté un poco alla domanda. «Sì», disse. «Voglio guadagnare 5 ghinee. Proprio adesso stavo pensando in che modo avrei potuto guadagnare 5 ghinee. Vengo con lei, vecchio signore?» Parlava lentamente, fermandosi tra un periodo e l'altro con uno strano, forte accento. Allora, disse il signor Clay, sali nella mia carrozza e quando arriveremo a casa mia ti dirò di più. Il marinaio posò il fagotto sul pavimento della carrozza, ma non ci salì. No, disse, la sua carrozza è troppo bella. I miei vestiti sono tutti sporchi e incatramati. Le correrò accanto. So andare altrettanto velocemente. Posò la grande mano sul parafango e quando la carrozza si mosse cominciò a correre. Andava sempre al passo coi due alti cavalli inglesi. E quando questi si fermarono davanti alla porta d'ingresso della casa del signor Clay, non sembrava che avesse il fiato molto grosso. I servi del signor Clay vennero fuori per ricevere il loro padrone e per aiutarlo a scendere dalla carrozza e a togliersi il mantello. E il maggiordomo, un cinese grasso e calvo, tutto vestito di seta verde, apparve sulla veranda reggendo alta una lanterna appesa a un lungo palo. Alla luce dorata della lanterna, Elishama osservò il padrone di casa e il suo ospite. Il signor Clay era stranamente rinvenuto. Era come se quel giovane in corsa accanto alla sua carrozza avesse fatto scorrere più libero il suo sangue. Aveva perfino un po' di rosa alle guance, come una donna imbellettata. Era soddisfatto della presa fatta nei pressi del porto di Canton e molto probabilmente non c'era in quei paraggi un altro pesce di quel genere pronto per essere pescato. Il marinaio era poco più di un ragazzo, aveva il viso largo e abbronzato e dei limpidi occhi celesti. Era così magro che le grandi ossa gli sbucavano fuori ovunque non fosse coperto dall'abito e aveva sul giovane viso un'espressione tanto grave da dargli un aspetto quasi stregato, come chi esca da una cella di prigione. Era vestito poveramente, con la camicia azzurra e un paio di pantaloni di tela e i piedi scalzi nelle scarpe sfondate. Riprese il fagotto che aveva lasciato nella carrozza e seguì lentamente in casa del signor Clay il maggiordomo con la lanterna. Capitolo 10. La cena della storia. Le candele, che rette da pesanti candelieri d'argento erano accese sulla tavola da pranzo, si riflettevano moltiplicate negli specchi con la cornice dorata appesi alle pareti. E la lunga sala splendeva tutta di 100 fiammelle vive. La tavola era apparecchiata, le pietanze servite e le bottiglie stappate. Per Elishama, che era entrato in sala da pranzo per ultimo e s'era seduto zitto zitto da un lato, Quei due commensali, coi servitori che andavano qua e là silenziosamente ai loro ordini, sembravano figure umane di un quadro veduto a gran distanza. Il signor Clay era stato aiutato a sedersi nella poltrona, gonfia di cuscini, accanto alla tavola, e vi stava eretto, come in carrozza. Ma il giovane marinaio si guardava attorno lentamente, come se avesse paura di toccare qualcosa in quella stanza, e avevano dovuto invitarlo 2 o 3 volte a sedersi prima che si fosse risolto a farlo. Il vecchio disse al maggiordomo, con un gesto della mano, di versare del vino al suo compagno. Poi lo osservò mentre beveva e per tutta la cena badò che avesse il bicchiere pieno. Per tenergli compagnia, sorseggiò anche lui un po' di vino, contrariamente alla propria abitudine. Il primo bicchiere di vino ebbe sul ragazzo un effetto rapido e violento. Appena posato il bicchiere vuoto, arrossì tutt'a un tratto così profondamente che gli occhi sembravano lacrimali per il calore delle guance che ardevano. Il signor Clay, in poltrona, fece un sospiro profondo e tossì 2 volte. Quando cominciò a parlare, aveva la voce bassa e un po' rauca. Via via che parlava, però, essa gli diventava più stridula e forte, ma parlò sempre molto lentamente. Ora, mio giovane amico, disse, saprai perché ho fermato te, povero marinaretto, in una strada del porto. Saprai perché t'ho condotto in casa mia, dove pochissime persone, anche tra i più ricchi mercanti di Canton, sono mai ammesse. Aspetta e saprai tutto, perché ho molte cose da dirti. Indugiò un poco, prese fiato e proseguì. Sono un uomo ricco, il più ricco di Canton. Un po' della ricchezza che ho accumulato nel corso di una lunga vita è qui in casa mia. Molta è nei miei magazzini e più ancora è sui fiumi e sul mare. In Cina il mio nome vale più danaro di quanto tu abbia mai inteso. Quando in Cina o in Inghilterra nominano me, nominano 1 milione di sterline. Fece nuovamente una breve pausa. Elishama pensava che fino allora il signor Clay aveva riferito soltanto dei fatti che da molto tempo aveva accumulato nella sua mente, ma si domandò come se la sarebbe cavata quando avrebbe dovuto passare dal mondo della realtà al mondo dell'immaginazione. Perché il vecchio, nella sua lunga vita, aveva udito narrare una sola storia. Nella sua lunga vita non ne aveva mai narrate e non aveva mai finto o simulato con chi che sia. Quando però il signor Clay riprese il racconto, il commesso capì che questi aveva in mente molte cose con le quali intendeva chiarirlo. Giù, in fondo all'animo suo, c'erano idee, percezioni, finanche turbamenti di cui non aveva mai parlato e di cui non avrebbe mai potuto parlare a nessun essere umano, salvo all'ignoto ragazzo scalzo che gli stava davanti. Elishama cominciò a rendersi conto del valore di ciò che si chiama commedia, perché in essa un uomo può alla fine dire la verità. 1 milione di sterline, ripeté il signor Clay. Quel 1 milione di sterline sono io stesso. Sono i miei giorni, i miei anni, il mio cervello e il mio cuore, la mia stessa vita. Con esso io abito solo in questa casa. Con esso ho vissuto solo per molti anni e sono stato felice che fosse così. Perché ho sempre provato avversione e disprezzo per gli esseri umani che in vita mia ho conosciuto e coi quali ho trattato. Ho permesso a pochi di loro di toccarmi la mano e non ho mai permesso a uno di loro di toccare il mio denaro. E mai, soggiunse pensieroso, come altri ricchi mercanti, ho temuto che il mio patrimonio non durasse quanto me, perché ho sempre saputo come tenerlo stretto e come farlo moltiplicare. Ma recentemente, proseguì, ho capito che io stesso non durerò quanto il mio patrimonio. Verrà il momento, e già si sta avvicinando, che noi due dovremo lasciarci. Perché metà di me deve andare via e l'altra metà sopravvivere. Allora dove e con chi sopravvivrà? Debbo lasciare che cada in mani che finora ho tentato di tenere lontane? Che sia tastato e maneggiato da quelle dita ingorde e oltraggiose? Tanto varrebbe che permettessi loro di tastare e maneggiare il mio corpo. Quando di notte penso a questo non riesco a dormire. Non mi son dato pena di cercare, disse. Una mano alla quale mi piacerebbe affidare i miei beni, perché so che questa mano non esiste al mondo, ma alla fine ho pensato che potrebbe darmi piacere lasciarli in una mano che io stesso ho fatto vivere. Ho fatto vivere, ripeté lentamente, fatto vivere ed evocato, come ho generato il mio patrimonio, il 1 milione di sterline. perché non sono state le mie membra a dolere, nei campi di tè in pieno mattino e sotto l'ardente sole del pomeriggio. Non è stata la mia mano a scottarsi sulle piastre di ferro infuocato su cui seccano le foglie del tè. Non le mie mani si sono sbucciate a tirare le sartie delle vele perché i velieri filassero a tutta velocità. I negri affamati nei campi di tè, i marinai sfiniti alla guardia di notte, non hanno mai saputo che contribuivano ad accumulare 1 milione di sterline. Per loro esistevano realmente solo i minuti, i dolori alle mani, le grandinate sul viso e le povere monete di rame delle loro paghe. Era nel mio cervello e per mio volere che quella moltitudine di piccole cose si univa per cooperare alla creazione di una cosa unica, 1 milione di sterline. Non l'ho dunque legalmente generato? Così, unendo le cose della vita e facendole cooperare secondo la mia volontà, io posso legalmente generare la mano nella quale lasciare, con un certo piacere, il mio patrimonio, la parte duratura di me. Rimase a lungo in silenzio, poi affondò in tasca la vecchia mano grinzosa, la tirò fuori e la guardò. «Hai mai veduto l'oro?» chiese al marinaio. «No», rispose il ragazzo, «ne ho udito parlare da capitani e soprastanti che l'hanno veduto, ma io stesso non l'ho veduto mai». «Tendi la mano», disse il signor Clay. Il ragazzo tese la grande mano. Sul dorso di essa erano tatuati una croce, un cuore e un'ancora. «Questo», disse il signor Clay, «è un pezzo da 5 guinee, le 5 guinee che devi guadagnarti. È oro». Il marinaio tenne la moneta sul palmo della mano e per un poco lo osservò con preoccupazione. Quando il signor Clay smise di fissarlo, bevette un poco di vino. «Io stesso», disse, «sono duro, arido, sono sempre stato così e non vorrei essere diverso. Mi disgustano i succhi del corpo, non mi piace la vista del sangue, non posso bere il latte, il sudore mi offende, le lacrime mi fanno schifo. In queste cose si dissolvono le ossa dell'uomo, e le sue ossa si dissolvono ugualmente nel rapporto umano che si chiamano solidarietà, amicizia o amore. Mi sono liberato di un mio socio perché non volevo permettergli di diventare mio amico e dissolvere le mie ossa. Ma l'oro, mio giovane marinaio, è solido, è duro, è refrattario alla dissoluzione. L'oro», ripeté mentre un'ombra di sorriso gli attraversava il viso, «è solvibilità. Tu», proseguì dopo una pausa, «sei pieno dei succhi di vita, in te vi è sangue e suppongo lacrime. Tu aneli ed aspiri alle cose che dissolvono l'uomo, all'amicizia, alla solidarietà e all'amore. Stasera hai veduto l'oro per la prima volta. Io mi servirò di te. Per te stasera soltanto i minuti, il piacere del corpo e le 5 guinee in tasca avranno un'esistenza reale. Non ti renderai conto di contribuire a una mia degna opera, alla bella delusione per i miei parenti d'Inghilterra che furono lieti una volta di liberarsi di me, ma che ora, da 20 anni sono in attesa dell'eredità dalla Cina, che vi dormano sopra sogni tranquilli». Il marinaio si ficcò la moneta in tasca. Era rosso per il mangiare e il bere che aveva fatto. Grande e ossuto, coi capelli irti e gli occhi lucidi, aveva l'aria forte, ingorda e robusta dell'orso appena uscito dalla tana invernale. «Non dica altro, vecchio padrone», esclamò. «Lo so quel che sta per dirmi. Prima d'ora l'ho sentito dire a bordo, parola per parola. Ecco, lo so che cosa accade a un marinaio quando sbarca. E lei, vecchio signore, stasera è fortunato. Se cerca un marinaio forte e di buona voglia, è fortunato. Non ne troverà uno più forte su nessuna nave. Chi è stato alle pompe, sotto la tormenta, al largo di Lofoten per 11 ore filate? È brutto per lei essere tanto vecchio e tanto arido. Quanto a me, saprò bene quel che farò». Il ragazzo diventò di nuovo color cremisi, tutt'a un tratto, con violenza. Smise di fare lo spaccone e rimase in silenzio per un minuto. «Veramente», disse, «non ho l'abitudine di parlare con gente vecchia e ricca. A dir la verità, vecchio padrone, proprio ora non ho l'abitudine di parlare con nessuno. Gliela voglio raccontare tutta la mia storia. 15 giorni fa, quando la goletta Barracuda mi raccolse e mi prese a bordo, era un anno intero che non dicevo una parola. Un anno fa, A metà marzo la mia nave, il brigantino Amelia Scott, era affondato in una mareggiata e di tutto l'equipaggio solo io ero stato sbattuto su un'isola. Non c'ero che io là sopra. Stasera non sono ancora passate 3 settimane da che passeggiavo laggiù, sulla spiaggia della mia isola. C'erano molti suoni sulla mia isola, ma non parlava mai nessuno. Io stesso ci cantavo ogni tanto una canzone. Si può cantare a noi stessi, ma non parlavo mai. Capitolo 11. La barca. Il signor Clay gradì nel suo marinaio e nella sua storia quell'inatteso sgorgo d'avventura. Voltò gli occhi semichiusi verso il viso del ragazzo e per un attimo ce li posò con approvazione, quasi con affetto. «Ah!» disse. «Dunque hai patito la fame, hai dormito in terra, ti sei vestito di stracci per un anno!» Guardò attorno a sé, alla ricca stanza, con orgoglio. «Allora tutto questo è molto nuovo per te!» Anche il marinaio si guardò attorno. «Sì!» disse. «Questa casa è molto diversa dalla mia isola!» Tornando a posare gli occhi sul vecchio, si ficcò una mano tra i capelli. «È per questo che ho i capelli tanto lunghi», disse. «Volevo farmeli tagliare stasera. Gli altri due mi avevano promesso di condurmi dal barbiere, ma poi avevano cambiato idea e invece mi stavano portando dalle ragazze. Per me è stata una fortuna non arrivarci, altrimenti non l'avrei incontrata. Presto mi riabituerò a parlare con la gente. Una volta parlavo, non sono tonto come sembro». «Piacevole?» disse il signor Clay, come a se stesso. «Straordinariamente piacevole, direi, stare da soli su un'isola, senza che nessuno possa ficcare il naso in quello che fai». «Boh, era bello in tante cose», disse il ragazzo gravemente. «Sulla spiaggia c'erano uova di uccelli e poi c'era la pesca. Avevo un coltello con me, un buon coltello. Facevo un segno con quello nella scorza di un albero ogni volta che vedevo la luna nuova. Avevo fatto 9 segni. Poi me ne sono scordato. E ci sono state altre 2 o 3 lune nuove prima che arrivasse il barracuda». «Sei giovane», disse il signor Clay. «Sarai stato contento quando la nave è venuta a prenderti e a riportarti tra la gente». «Sono stato contento», disse il marinaio, «per un motivo. Ma mi ero abituato all'isola. Avevo finito per credere che ci sarei rimasto tutta la vita. Le ho detto che sull'isola c'erano tanti suoni. Tutta notte sentivo le onde e quando si alzava il vento me lo sentivo soffiare attorno da tutte le parti. La mattina sentivo gli uccelli marini che si svegliavano. Una volta piove per un mese intero e un'altra volta per 15 giorni. C'erano stati tuoni e fulmini tutte e 2 le volte. La pioggia cadeva dal cielo, come una canzone, e il tuono come la voce di un uomo, la voce del mio vecchio capitano. Ne rimasi stupito, erano molti mesi che non sentivo una voce. «Le notti erano lunghe?» chiese il signor Clay. «Erano lunghe quanto i giorni», rispose il marinaio. «Veniva il giorno, poi la notte, poi il giorno. Una era lunga quanto l'altro. Non come al mio paese, dove le notti sono corte d'estate e lunghe d'inverno». «E di notte a che pensavi?» chiese il signor Clay. «Pensavo soprattutto a una cosa», disse il marinaio. Pensavo a una barca. Molte volte, anzi, sognavo di averla, che la mettevo in mare e la governavo. Doveva essere una barca bella e forte, che teneva bene il mare, ma non importava che fosse grande, non più di 5 stazze. Mi sarebbe andata bene una scialuppa, con le murate alte. Il timone doveva essere turchino e io avrei inciso delle stelle nel legno attorno alle finestre della cabina. Casa mia è in Danimarca, a Marstal. Il vecchio armatore, Lars Jensen Bager, era amico di mio padre. Potrebbe aiutarmi a fabbricare la barca. Ci porterei dei carichi di grano da Banholm e Skelskor a Copenaghen. Non volevo morire prima di aver avuto la mia barca. Quando fui raccolto dal barracuda, pensai che era la mia prima tappa verso la barca e per questo fui contento allora. E quando ho incontrato lei, vecchio signore, e lei mi ha chiesto se volevo guadagnare 5 ghinee, ho capito che avevo fatto bene a venire via dall'isola, ed è per questo che sono venuto con lei. «Sei giovane», disse nuovamente il signor Clay. «Sull'isola hai certamente pensato alle donne». Il ragazzo rimase a lungo in silenzio, guardando fisso davanti a sé, come se in realtà avesse dimenticato come si fa a parlare. Sì, disse, sull'Amelia Scott e anche sul Barracuda. Gli altri parlavano delle loro ragazze. Lo so molto bene perché cosa mi paga stasera. Ci so fare come tutti i marinai, non avrà motivo di lamentarsi di me, padrone. La sua signora, che aspetta me, non avrà motivo di lamentarsi. Tutto a un tratto, per la terza volta, il sangue gli affluì al viso. Poi scese e risalì, e quel rossore si faceva sempre più cupo sotto l'abbronzatura delle guance. Egli si alzò dalla sedia, alto e robusto e molto serio. Però, disse con voce nuova e profonda, tanto vale che torni alla mia nave, e lei, vecchio signore mio, si prenda un altro marinaio per quel servizio. Si ficcò la mano in tasca. La lieve tinta rossa sparì dalle guance del signor Clay. No, disse, no, non voglio che torni alla tua nave. Sei stato gettato su un'isola deserta per un anno. Sei stato senza parlare a un essere umano. Mi piace pensare questo, voglio servirmi di te, non prenderò un altro marinaio per il mio servizio. L'ospite del signor Clay fece un passo avanti e così apparve tanto grande che il vecchio strinse improvvisamente tra le mani i braccioli della poltrona. Finora era stato minacciato da uomini disperati e li aveva sconfitti col peso della sua ricchezza o con la forza del suo cervello freddo e sottile. Ma lo sdegno della creatura che gli stava di fronte era troppo semplice per cedere a uno di quegli argomenti. Avrebbe potuto ficcarsi la mano in tasca e tirar fuori il buon coltello di cui aveva appena parlato. Era dunque questione di vita e di morte far avverare una storia. Il marinaio tirò fuori di tasca la moneta d'oro che gli aveva dato il signor Clay e la porse al vecchio. «È meglio che non provi a trattenermi», disse. «Lei è molto vecchio e ha poca forza da opporre alla mia». «Grazie, vecchio padrone, del mangiare e del bere. Ora torno alla mia nave. Buonanotte, vecchio signore». Il signor Clay, in quello stato di stupore e di allarme, riusciva a parlare soltanto con voce bassa e roca, ma parlò. «È la tua barca, giovane bel marinaio mio?» disse. «La barca che deve essere tutta tua? La bella barca da 5 stazze che tiene bene il mare e deve trasportare il grano dal tuo paese a Copenaghen? Che ne sarà ora che restituisci le 5 ghinee e te ne vai? Rimarrà solo una storia che tu mi hai raccontato e che non sarà mai varata, che non prenderà mai il mare». Dopo un momento il ragazzo si rimise la moneta in tasca.